sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su I colori dell'anima. E buonasera a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori dei Colori dell'Anima che si sono sintonizzati in questo momento, mentre sono le 21 e qualche secondo di questo 7 aprile 2014, e io passerei subito a salutare tutte le persone che sono in studio. Allora cominciamo con la mia compagna radiofonica, Anna Maria. Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati. Grazie. Una compagna che viene abbastanza spesso, Fiorella. Grazie, buonasera a tutti, mi Ciao. Fa molto piacere essere qui. Allora, e poi abbiamo due ospiti che però ve li presentiamo un po' più tardi, magari quando si saranno un po' scaldati qui in trasmissione, e ci parleranno anche loro, daranno il loro contributo alla trasmissione di questa sera, che pregherei Fiorella di introdurre. Di cosa parliamo questa sera? Dicci tutto. Allora, e anche questa stessa trasmissione sarà un po' una sorpresa. Il titolo potrebbe essere Il viaggio, ma non partenza e destinazione, ma quanto tutto ciò che può succedere dal partire, dal momento che si parte, anzi dal momento in cui si ha un'idea di partire, di andare da qualche parte. E questa sera penso che possiamo fare la stessa cosa, dunque si inizia, faremo si deve percorso. Finire fra un'oretta, e poi nel frattempo non so quello che succede, di quello che parliamo, delle io penso, io no, a me non piace molto l'autostrada, mi piacciono più le strade provinciali, no? Dove ci sono tutte quante traverse, traversine, un pochettino come la vita, e noi chissà quale traversina prenderemo questa sera? E staremo a vedere. Vediamo un po', dunque il viaggio, nel viaggio, si parte? Si parte. Io ho trovato una frase che mi è piaciuta molto, da un calendaretto della Quaresima che non c'entra niente, però mi è piaciuta questa frase che dice: un viaggio di mille luoghi comincia con un passo. È bella, trovo, perché molto. Un passo bisogna sembra sempre niente, fare il primo passo. Infatti, un passo sembra niente, ma poi con questo passo uno può attraversare, può raggiungere mille e luoghi. Chissà dove ti porta. Allora, dunque, io volevo anche ricordare che in questi giorni, magari appunto ne parleremo non in dettaglio, ma insomma lo sfioreremo come argomento, ci sono stati due anniversari. Il primo è il terremoto che c'è stato all'Aquila nella notte fra il 5 e 6 aprile 2009, quindi sono 5 anni, e la nostra Fiorella ha delle origini ben solide nella... Sì. All'Aquila, non so, nella città dell'Aquila o nella provincia dell'Aquila? Mia mamma ha delle origini proprio di Onna. Di Onna, ecco, quindi sì, la città famosa per come si è, per come è stata distrutta. Sì. E l'altro anniversario, e di questo invece probabilmente ci potrà dire qualcosa in più Anna Maria, ripeto, non è che parleremo di questi argomenti, li sfioreremo. No, li sfioreremo appena, proprio perché parliamo sì, di altri paesi. Parliamo di altri paesi, sono i 20 anni. 20 anni dal genocidio del Ruanda, sì. Quest'anno. Sì, sì, quando morirono tra 800.000 e un milione di... Di Tutsi. Sì. Uh-huh. Di ruandesi, parliamo di ruandesi. Sì, per e tu eri lì, giusto? E io ero lì insieme a Valentina. Che presenteremo fra poco, no, anzi presentiamola adesso. Valentina, ciao. Buonasera. Allora, possiamo dire che Valentina è la figlia di Anna Maria, giusto? Diciamolo, così lo sanno tutti ormai. Ecco, così lo sanno tutti. Non so se la voce assomigli, ma comunque... Non lo un so pochino, se ci somigliamo fisicamente, ma la voce non ho idea. Vedremo, magari sentiamo la registrazione. Magari vediamo. Vedremo nel corso della serata. E poi abbiamo anche un altro ospite che, se non sbaglio, si chiama Valerio, giusto? Sì. Che sei venuto qui con Valentina. Buonasera. Esatto, buonasera. Allora, il viaggio nel viaggio. Fiorella, vuoi cominciare un po' a elaborare questo argomento? Sì, allora, avevo pensato il viaggio nel viaggio che... non solamente un viaggio di spostamento con una meta, una destinazione, un desiderio, ma anche un viaggio di vita, perché quando si parte, almeno per quanto mi riguarda, si va in posti che vogliamo scoprire, ma sono posti anche che ci aprono il cuore, ci aprono tutto, cioè. E dicendo viaggio nel viaggio, la voglia e anche l'esortazione a tutti quanti di aprire se stessi. Cioè può essere anche un viaggio, come dicevamo prima, la mattina quando andiamo in ufficio, dunque usciamo di casa e andiamo in ufficio. Se pensiamo solamente ok, devo andare in ufficio, arriviamo, ma se nel momento in cui usciamo di casa iniziamo a aprire gli occhi, guardiamo chi ci sta vicino, iniziamo a guardare un po' di più le cose che ci sono intorno, apprendiamo molte molte più cose, noi stessi facciamo un viaggio in noi stessi, in noi, perché ci confrontiamo a una realtà, a delle persone, e io penso che me, quando siamo arrivati arriveremo in ufficio, io penso che un pochettino saremmo cambiati. E dunque il viaggio, abbiamo fatto tantissimi viaggi lontani e che forse ci hanno cambiato, non ci hanno cambiato. Indubbiamente ci hanno cambiato. Tra l'altro posso dire, l'ho letto giorni fa, a proposito di viaggio, una piccola chicca, i mappamondi, che sono ciò che noi ci hanno sempre affascinato da piccoli, ancora adesso io ho un mappamondo che si accende e ce l'abbiamo tutti con la luce e si vede, si gira. Voi sapete che il mappamondo sì, eccolo lì, il mappamondo si costruisce in Italia, non mi ricordo più dove, però vengono mandati in tutte le parti del mondo. Non si fanno in Cina i mappamondi? No, non sono quelli made in China. Ecco. No, abbiamo quelli doc. Ma c'è una particolarità, che non tutti i mappamondi sono uguali. Cioè, il mappamondo che è inviato in Israele deve riportare alcune particolarità, lo Stato di Israele non accetta alcuni paesi, eccetera, eccetera, e così via, altrimenti possono succedere degli scandali diplomatici. Dunque, non tutti i mappamondo sono uguali. La prossima volta che andiamo in questi paesi, vediamo prima chi riconoscono e chi no, e vediamo come è fatto il suo mappamondo. E ci compriamo un mappamondo. Dunque, chiusa la parentesi, ma tanto si parlava di viaggi, giusto? Dunque, allora, dov'è che vogliamo andare? Partiamo? Da qualche parte? Dove vogliamo andare o dove siamo stati? Partiamo. Allora, dove siamo stati? Prima dicevamo il viaggio nel viaggio. Io alcuni anni fa ho fatto un bellissimo viaggio in Cambogia. E da Phnom Penh abbiamo preso l'autobus, abbiamo un po' girato, abbiamo cercato di farlo con i mezzi locali e siamo andati a Siem Reap, nel nord del paese. Dunque, si è partito una destinazione. Io quello che ricordo è più che altro il viaggio. Noi eravamo tre persone, mio marito e mio figlio, e abbiamo avuto tre poltrone sul collo. Noi eravamo delle persone iperlussuose, perché c'era gente che era in due poltrone, c'era mamma, due mamme con due bambini piccoli da allattare e altri quattro bambini ai piedi, per terra. Dunque, erano tutti su due poltrone, seduti. Il bello di questi viaggi, perché naturalmente tu dici, sai, sono viaggi lunghi, ci fermiamo, prendiamo un panino. No, in Cambogia il panino con la cotoletta, quelli che noi prendiamo normalmente quando andiamo in Italia, non esistono, ma esistono dei cartocci di cavallette che voi portate. Buonissimi. Buonissimi, se ti dico, guarda, mancava un po' di sale, che tu porti su e ti succhi mentre fai il viaggio. Noi invece, quando viaggiavamo in Africa, che io ero ragazzina con i miei, avevamo i caschi di banane, potevamo comprare lungo la via. Caschi di banane, le bananine piccole, buonissime. Oppure le uova sode. Buonissimo. Non so da quanto tempo erano sode. Qui faccio un piccolo ritorno, ecco, il viaggio nel viaggio. Vi ricordate tanti anni fa, quando si prendeva il treno per ritornare in Italia da Bruxelles, esisteva ancora questo bellissimo modo di viaggiare, almeno per me, che è il treno. Si partiva di qui e poi si arrivava. Io a Roma, ma c'era gente che ancora andava in Sicilia. Mi ricordo che queste persone tornavano una volta l'anno e si mettevano al finestrino e non dormivano fino a che non arrivavano al confine. Addirittura. Perché dicevano, siamo arrivati in Italia, adesso possiamo andare a dormire. E no, non andavano a dormire perché erano talmente contenti. E io lì, durante questi viaggi, ecco, vedi, il viaggio nel viaggio, ho imparato certe cose. Io avevo un bambino piccolo e mi aiutavano a tenerlo buono, tranquillo, e mi hanno insegnato che per i lunghi viaggi, ricordatevi, non c'è niente di meglio che il panino con la frittata. Perché? La frittata calda si mette in mezzo al pane, rimane umido per almeno 8 ore. Questo è anche il pane non si secca, vedi? Sì, il pane non si secca. Sono quelle piccoli segreti. Ecco, ma queste sono cose che tu, cioè, uno fa un viaggio, non si mette lì, io sono una che chiacchiera tantissimo e si sente, quando faccio un viaggio non porto nessun libro, niente, mi metto attaccato vicino a qualcuno e inizio a parlare. E quello per me è un viaggio, imparo molto, conosco qualche altra persona, dunque... Ma ritorniamo in Asia, questa era la parentesi. Sì, questa era la parentesi. In Asia, sì, questa è stata la Cambogia, appunto queste usanze completamente differenti in una vita quotidiana, dunque abbiamo preso sempre questi autobus pieni di persone del luogo e dunque noi ci siamo mischiate a queste persone, a parte mio figlio che come ritornato in Europa è stato contentissimo perché la sua taglia era molto più alta, tutti lo vedevano, tutti lo indicavano e dice non ce la faccio più. Sì, perché in alcuni luoghi sì, in effetti non ci si pensa, perché spesso quando si viaggia sì, si va a fare i turisti, ma ci sono dei luoghi dove la fisionomia dell'europeo non è così comune. E che siamo noi degli animali da bête de foire, come si dice. E a me è capitato in Pakistan, andai in Pakistan anni fa e andai in un villaggio un po' sperduto dove c'erano, non avevano mai visto delle donne bianche europee, quindi ero proprio... Speciale. Sì, sì. È stato emozionante, devo dire. Ma è rivelata, ti sei dovuta... Ho dovuto mettere un vestito, sì, anche se avevo portato dei vestiti larghi, dei vestiti ampi, però ho dovuto comprare dei vestiti sul posto tradizionali, sì. Un po' forse per confondermi, speravo di passare inosservata, certo, perché mi facevano le foto, guardate, la donna bianca. È stata una bella esperienza comunque. Ti sei sentita osservata? Sì, assolutamente. Cambogia? Sì. Sì, Cambogia, quello che ricordo di questo viaggio è noi viviamo in questa parte del mondo dove abbiamo tutto, dove tutto è facile ottenere. Io mi ricordo, non sono andata a visitare una grotta, avevo paura di scivolare e tutto quanto, e c'erano alcuni bambini, i bambini ci seguivano sempre, c'erano un padrino da guida, e sono rimasta fuori e si sono messi tutti quanti intorno a me per vedere il libro della guida che avevo a colori. Questi bambini mi hanno detto, cioè noi purtroppo abbiamo solamente un libro per tutto l'anno scolastico. Scusa, ma in che lingua te l'hanno detto? In inglese. In inglese. Sì, il tasso di istruzione è abbastanza... No, infatti ero poi curiosa. Poi erano bambini che volevano anche... Cioè, non chiedevano l'elemosina, ma ti facevano da guida. Ho capito. Dunque c'era... E sono messi tutti quanti intorno a me perché loro avevano questa fame di sapere. E avevano un libro che veniva tolto loro però alla fine della scuola. Dunque non avevano da leggere. E non avevano mai visto il loro paese in una guida. Dunque gli ho fatto vedere ciò che era il loro paese. Sì, perché in realtà alcune popolazioni non sono in grado, non possono visitare il proprio paese, che è tristissimo questo, perché quindi non lo conoscono, a parte l'area. Ma vuoi dire perché sono poveri in questo senso o per altri motivi? Sì, perché sono poveri, perché non ci sono infrastrutture, perché magari non c'è neanche la cultura del viaggio. Si resta attaccati al luogo di origine. Non mettiamo sempre solo la povertà in gioco. Ho capito. Vivono in maniera diversa, forse la curiosità ti viene più con un certo tipo di cultura piuttosto che... E quindi è vero che tanti bambini non conoscono il proprio paese, e anche adulti. Va bene, allora vogliamo fare una piccola pausa, che dite? Bene, benissimo. Andiamo quindi, mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Alma 101.9 e ci potete ascoltare anche su internet in diretta andando appunto al sito della radio radioalma.eu e poi ci potete riascoltare successivamente sul nostro blog che è radioalma.eu/icolori dell'anima. E vi ricordo anche che andiamo in onda quindi ogni lunedì dalle 21 alle 22 in diretta e quindi stasera stiamo parlando del viaggio nel viaggio, ma ci ritroviamo quindi fra pochissimo. Il viaggio nel viaggio è questo l'argomento della trasmissione di oggi, 7 aprile 2014, e sono in compagnia di Anna Maria, Fiorella, Valentina, Valerio. E questa proposta di parlare del viaggio nel viaggio che mi è stata fatta qualche giorno fa, ci è stata fatta qualche giorno fa da Fiorella, l'ho accolta con molto piacere, ma anche perché, e adesso spiego quello che ti avevo detto, Fiorella, una mia amica compie gli anni e ho pensato come regalo di invitare una serie di amici e parenti di lei che io conosco a raccontarmi un viaggio. E quindi mi sono fatta mandare questi viaggi, viaggi realmente fatti, desideri di viaggi, insomma c'era ampia possibilità, con foto, se ce l'avevano, ma non necessariamente, e li ho raccolti. Quindi ho raccolto 55 viaggi e la settimana prossima, che è il compleanno di questa amica, le darò questa raccolta. Allora, ovviamente non mi metterò a raccontare i viaggi, perché sono dei viaggi, alcuni diciamo dei viaggi geografici, ma per esempio c'è questo, di cui vi leggerò un pezzetto, non tutto, che si chiama Il viaggio è una continua ricerca di casa. Paura. Non so cosa aspettarmi. Poi l'aereo si alza in volo. La prima volta. Vuoto allo stomaco, sibilo nelle orecchie. Tengo stretta la borsa che sa di casa, come un amuleto. Lingua che non sa di casa mi parla. Capisco, con sorpresa. Rispondo in inglese. Mi piace, mi rassicuro. Nebbia all'arrivo, nessuno si guarda, nessuno mi accoglie. Mi incammino verso la metro, viaggio fino a Manchester e poi cambio verso Liverpool. Di nuovo la lingua che non sa di casa. Questa volta non capisco nulla. Di nuovo timore. Il viaggio è un'altalena di sensazioni. Forse è per questo che ci piace tanto. A me piace ancora di più, perché poi so che tornerò a casa. Ma a casa ci tornerò dopo mesi. Tanto vale dimenticarla. Nella mia nuova dimora abitano l'Inghilterra, il Bangladesh e le isole Salomone, che nemmeno sapevo esistessero. Ci unisce il cibo, mangiamo insieme e parliamo, mi sento più a casa. Nel raccontare il mio paese mi sento più italiana che in Italia. Mi viene in mente Heidegger, quando parla dell'impossibilità di comunicare per due persone che parlano lingue diverse. Mi dico che ha ragione. Parliamo, ci scambiamo informazioni, ma di fatto non comunichiamo. Allora provo a insegnare alle mie nuove persone qualche parola d'italiano e loro fanno lo stesso con me. Ci sentiamo più a casa, sì. Trovo casa lontano da casa. Il viaggio per me è una continua ricerca di casa. Mi aiuta a ritrovarla a chilometri di distanza. La guardo da lontano, la messa a fuoco è più nitida, talmente chiara che quasi non ho voglia di tornare e vederla da vicino. Che i viaggi siano per tutti un modo per guardarsi meglio. Al prossimo viaggio, allora. Allora, ecco, questo, vabbè, questo forse era un po', diciamo, poetico in un certo senso. Sì, molto bello. Mi è piaciuto perché mi piace questo concetto del tornare a casa. Ma io vorrei chiedere a Valentina qual è la tua casa, perché so che tu hai viaggiato molto. Fondamentalmente non c'è un posto preciso che definirei casa. La casa è il posto dove ti senti bene, dove stai bene con le persone che hai intorno, dove sei tranquillo, dove magari ci sono sempre cose nuove da scoprire. Almeno questo è il mio punto di vista. È ovvio che tornare dove c'è la tua famiglia o le persone che conosci da tutta la vita dà un senso di sicurezza, ma secondo me non è solo quello. E quando invece si parla di viaggio e uno ti chiede qual è il viaggio che, non so, che ti ha colpito di più, che più ricordi, che per qualche motivo ha segnato di più la tua vita, di quale viaggio parleresti? Probabilmente il primo viaggio che ho fatto da sola, non tanto per il, come dicevamo prima, il posto dove sono stata, eccetera, eccetera. Il effettuare il viaggio, il tragitto da sola. È stato qualcosa che, diciamo, in qualche modo mi ha fatto crescere, perché la prima esperienza ero piccolina, in un posto lontano da casa, una lingua che conoscevo pochissimo. Quindi dover affrontare qualcosa da sola e avere la consapevolezza che non avevo nessuno su cui appoggiarmi è stato inizialmente paurosissimo, poi adesso lo riguardo come quasi divertente. E quanti anni avevi? 11. Proprio piccola. E la tua mammina ti ha lasciato andare da sola? Non avevo scelta, altrimenti non l'avrei lasciata. No, ma non comunque ti... devo dire una cosa, che lei sin da piccola è stata sempre estremamente indipendente e anche nelle situazioni un pochino più critiche ha sempre trovato delle soluzioni, ma lampo. Io ricordo una volta che lei ha fatto un viaggio, non ricordo esattamente in quale paese fosse andata, era andata a trovare il suo papà e doveva viaggiare accompagnata. Però era talmente abituata a andare in giro da sola, aerei, aeroporti, eccetera, che rientrando non ha neanche aspettato la hostess che accompagna di solito i ragazzi sotto i 14 anni. Ha preso e è andata da sola, è andata a ritiro bagagli, ha preso il primo poliziotto che ha trovato e gli ha detto: mi porti dalla mia mamma, per favore. Esattamente lo stesso viaggio di cui parlavo io. Esatto. Quindi sei cresciuta in fretta in quel viaggio. È stata velocissima. Io me la sono vista arrivare con questo poliziotto. Ora che cosa avrà fatto? Bello. Ma così, in questo viaggio dove andavi, per mia curiosità? Tornavo a casa in Italia dal Pakistan. Ah, però... Insomma, non sì, era no, proprio dietro l'angolo. Era un viaggio. Non era un pesante. Viaggio neanche, non dico nazionale, ma neanche europeo addirittura. Insomma. È stato un viaggio interessante. Conoscere, poi io sono una persona molto socievole, quindi andare in giro per l'aereo, conoscere persone nuove, come diceva prima Fiorella, fare amicizia. E Fiorella faceva amicizia sui treni, tu io sugli aerei. Negli aerei. Sì. Ma io anche sull'autobus. Se riesci a fare amicizia in metropolitana, mi spieghi come fai, però. Ci sono riuscita. Basta in metropolitana bloccare la porta, non far uscire nessuno. Sai cosa mi fai ricordare? Quando mio figlio piccolo, il più piccolo Simo, quello che poi invece è diventato tanto tanto alto, che in Cambogia non ce lo siamo persi perché era il più alto, sì. E in quinta elementare con la scuola ha fatto un viaggio studi, beato lui, 15 giorni all'isola della Réunion. E io ho fatto: sei contento? Sì, non ti preoccupare. Dico: guarda, sempre ritornando al mappamondo, vai sul mappamondo e vedere dove è l'isola della Réunion. E sento che fa: ullala, ma è lontano. E vedevo che il ditino scendeva dal Bruxelles, zup, scendi giù. E allora mi fa: senti, io faccio una proposta, io ci vado la mattina, ma la sera torno a dormire a casa. Caspita. E quando invece è arrivato la cartolina, e poi vabbè ho chiamato, la cosa che li ha, perché sai, c'è sempre qualche cosa ti colpisce, no, su questi viaggi. Anche io penso che anche Valentino, come c'è stato l'aereo, si ricorda un qualche cosa in particolare. Tutti noi siamo così. E la cosa che mi disse, mi fa: l'oceano quanto è grande. Perché lo portarono subito, perché sai, tutti sti rezzini scalmanati, quante ore. E lui ancora adesso mi fa: mamma, quanto era grande l'oceano. Penso che Valentina, non so quale sia stata la prima cosa che ha visto. Cioè, che cos'è che ti ricordi? Perché era il primo viaggio, dunque è stato molto interessante. Non era il primo viaggio, era il primo viaggio da sola. Quindi fondamentalmente l'interessante è stato il trovarmi da sola e guardarmi intorno e cercare di capire, cercare di individuare dove andare, guardare le persone che mi stavano intorno, come si muovevano. Quindi il bello è stato guardare gli altri, come si muovevano gli altri. Ricordo che c'era un signore seduto vicino a me sull'aereo, un signore arabo, quindi con la tunica lunga, la barba lunga, e ricordo che leggeva questo libro in arabo. Io non sapevo che si leggesse al contrario, non sapevo che funzionava al contrario. Quindi questa è una cosa che mi è rimasta molto impressa. C'è stata la prima volta che ho realizzato quante culture diverse ci sono, quanto siamo diversi l'uno dall'altro. E sono cose che magari se avessi avuto vicino qualcuno con cui chiacchierare, come mamma o papà, non avrei notato. Ma forse la cosa in questa maniera ti rimane anche più impressa, perché non c'è un filtro, dunque le cose ti arrivano... Sì, certo. Ti arrivano... Sicuramente. Diretta, penso. Sicuramente. No? E mi fa parlare di lingua. Sempre noi eravamo in Cambogia e siamo andati in un albergo che si chiama Juliana. Ma bisognava dire in una certa maniera che sembrava, cioè io che ero di accento romanesco lo dicevo bene, dunque se parlavo non italiano e neanche inglese, e facevo Giuliana, lo facevo, riuscivamo ad arrivare la sera in albergo. I miei figli e mio marito, niente, non c'era possibilità. Dunque ci sono queste escamotage. Sì. A proposito dell'italiano, una cosa che mi ricordo, tantissimi anni fa, nell'88, gennaio dell'88, lo ricordo, prima del colpo di Stato, ero in Birmania e questa era una cosa, questo è veramente il viaggio nel viaggio. Io sono arrivata la sera e tutti quanti eravamo stati invitati, facevano: ah, la signora italiana, mio marito diceva: ma tu hai combinato qualcosa, perché tutti quanti aspettano. Già ti conosco. Già mi conosco. E poi ho scoperto perché loro, i birmani, avevano degli stagi funzionari, andavano, e chi capitava bene andava in Italia. Ah. E non volevano più tornare perché mangiavano spaghetti. E dunque, e mi aspettavano perché soprattutto uno di loro aveva continuato ad avere un amico di penna, ma dopo tanti anni non si ricordava più l'italiano. Allora, a vedere questo signore anziano, anche importante, che è venuto a me e dicendo: scusi, mi può tradurre la letterina del mio amico di penna? E lì mi ha detto anche... Quindi tu l'hai tradotta dall'italiano all'inglese questa lettera, sì, Pen's Friends. Sì, però era una persona che aveva, cioè una persona anche importante, per le lacrime agli occhi di commozione si ricordava. E bisogna dire che in Birmania c'è un villaggio che si chiama Napl, che è tutto Chi c'è stato? Certo. Il popolo di migranti e di navigatori. Siamo arrivati anche là. Anche là siamo arrivati. Allora, c'è rimasta la voce maschile che non abbiamo ancora sentito. Sì. Dunque, Valerio, c'è un viaggio che hai fatto o che vorresti fare? Perché non necessariamente uno il viaggio l'ha già fatto, ma magari c'ha il desiderio di farlo. Di cui ci vuoi dire qualcosa? Allora, viaggi che ho fatto, sì, l'ho fatti non come Valentina, diciamo, l'ho fatti sempre accompagnato. O dai genitori o dai amici. Quindi non hai potuto vedere la scrittura araba al contrario? No, quella no, me la sono persa. E sì, sono stato in diversi posti: Grecia, Egitto, America. E oddio, quello che mi è rimasto più impresso è l'Egitto. Perché è un posto che mi piace, solo che quando sono partito me lo aspettavo in un modo, cioè già da come l'avevo visto, da... Con le piramidi, come te l'aspettavi? Sì, con le piramidi. Uno si immagina. Sì, ma poi quando sono arrivato là in Egitto e vedere le piramidi che, insomma, non stavano in mezzo al deserto come tutte se le aspetta, infatti. Con la sfinge, no? Sì. E mi sono visto le piramidi in mezzo alla città, sono rimasto un po' male, sinceramente, sì. No, ma ti capisco, anch'io c'ho l'idea. Non essendo andata in Egitto, che le piramidi stanno in mezzo al deserto. Sì. Invece il viaggio che vorrei fare, qui è un argomento un po' un po' toccante, per il futuro. Ho avuto una bella proposta del lavoro della mia vita, cioè il lavoro che mi piace, e in California. Ah, però. Sì. Non è proprio dietro l'angolo, ma non insomma. È dietro l'angolo. però è un viaggio che vorrei fare. Con l'inglese te la cavi bene? Con l'inglese sì. Te la cavi. Ci stiamo lavorando, comunque sia me la cavo. Work in progress. E non ti spaventa il fatto di andare, diciamo, probabilmente, chissà, magari anche per tutta la vita così lontano? Sì. Non lo so che progetti hai, ma insomma, potrebbe essere così. Potrebbe essere, sì, sicuramente per tutta la vita, anche perché il lavoro è... il lavoro che andrò a fare è un lavoro che mi piace, che mi affascina. Beh, insomma, auguri, spero che tu possa realizzare questo desiderio di questo viaggio molto. E di tutto quello che comporta, ovviamente. Sì. Allora, io proporrei di andare avanti con un po' di musica, siete d'accordo? E comunque, anche se non siete d'accordo, lo faccio lo stesso, giusto? Ecco. Però sei carina a chiedercelo. Va bene, vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Alma 101.9, sono le 21.33, stiamo parlando di viaggio nel viaggio, adesso quindi un brano musicale e ci ritroviamo fra pochi minuti. Mi raccomando, rimanete sintonizzati. Allora, il viaggio, nella trasmissione di oggi, 7 aprile 2014, qui a Radio Alma, ai colori dell'anima. A proposito di viaggi, mi è tornato in mente il viaggio che feci in autobus a Istanbul, prendendo un autobus da Venezia appunto a Istanbul, e quindi andando prima dall'Abruzzo a Venezia in treno di notte con una amica che era venuta a lavorare nel centro di ricerche dove lavoravo, un'amica turca che quindi tornava in Turchia, e approfittai per fare il viaggio con lei. Quindi lei mi disse che c'era questo servizio di pullman, facemmo il viaggio di notte in treno in piedi, perché il treno era pienissimo, era la fine dell'estate, quindi tutti gli immigrati che erano andati al sud, che risalivano verso nord. La mattina dopo, come degli zombie, avendo un paio d'ore tra il treno e l'autobus, per la prima volta visitai Venezia, quindi insomma mi ricordo quasi niente, ma insomma qualcosa me lo ricordo. E poi prendemmo questo autobus e il viaggio durò all'incirca 26 ore, passando in Bulgaria, e non so per quale motivo in Bulgaria l'autobus non si poteva fermare, tutti che dovevano fare pipì, insomma. Mi ricordo molti dettagli di questo viaggio, perché non si poteva scendere, appunto, non so per quale motivo. E devo dire che sì, l'autobus è bello, però ecco, dopo 26 ore uno si stufa. Non è il mio mezzo di trasporto preferito. No, ma il bello è che poi lo fece anche al ritorno, quindi, e il ritorno veramente non finiva mai. Quindi, però insomma, diciamo che a 25-26 anni questa esperienza si può fare, poi ecco, un po' più tardi magari diventa difficile da fare. Tu pensi? Sì, penso, non so. Tu lo faresti un viaggio di 26 ore in autobus, Fiorella? Oggi? In autobus no, però in treno sì, io vorrei fare la Transiberiana. Beh, magari già questo è diverso, come sarebbe bello. Sì. Il treno c'è una comodità diversa, sì, insomma, sì. L'autobus... No, sì, no, l'autobus no. È veramente stipato. Ma forse adesso fanno scendere in Bulgaria veramente... per fare il video. No, adesso sì, adesso sì. Però si potrebbe rifare. Solo per visto questo. Visto che fanno parte dell'Unione Europea, almeno ci faranno scendere. Sì. Ma poi magari non so neanche se fosse vero, forse era una scusa dell'autista per non perdere tempo, perché sai, quando scendi fai scendere tutto un autobus pieno, è ovvio che devi stare fermo almeno mezz'ora, quindi per evitare ulteriori ritardi ci missero questa scusa. Io non so neanche se fosse vero. Fatto sta che in Bulgaria non potemmo scendere. Scusa, comunque potesse pure che abbia visto il film, ve lo ricordate? Pane e tulipani, sì, lei sì. Scende dall'autobus per andare a fare il film. Sì. E poi non forse avevano visto il film. No, io non l'ho visto. sì, bello. No, Anna Maria, allora, il tuo viaggio significativo, o insomma il viaggio che allora, così ti viene in mente? I viaggi sono tutti significativi per un motivo per un altro, indipendentemente dal luogo dove si va. Io ne ho uno che lo porto nel cuore, ma di quando ero ragazzina, mi pare che fosse nell'87, quindi parliamo di qualche anno fa. Eravamo in Africa, mio papà era fisso in Ruanda e noi studiavamo in Italia, però andavamo sistematicamente per le vacanze. E quell'anno per Natale ci fece una sorpresa e ci disse: ragazzi, vi porto in macchina dal Ruanda alla costa del Kenya, quindi da Kigali a Mombasa in macchina, più di 2000 chilometri, strade pochissime asfaltate. È stato il viaggio, penso, più bello della mia vita. Eravamo in condizioni pietose quando siamo arrivati, però è stato un viaggio bellissimo, bellissimo. Un'avventura. È stata veramente un'avventura. In Tanzania addirittura arrivavamo in un punto dove la strada non c'era più. Non c'era più perché stavano facendo dei lavori e c'era una ditta italiana all'epoca che doveva costruire la strada, e noi per poter passare ci fermammo dove era il cantiere di questa azienda e ci fecero dormire lì perché la strada non c'era ancora. E il giorno dopo avevamo davanti un caterpillar che vi spianava. ci costruiva la strada. Un paio di chilometri così abbiamo fatto, cioè la strada non c'era, il caterpillar passava e ci faceva, e dietro noi avevamo delle macchine. Ma tu hai detto andavate al mare. Non perché il mare dove andavate era il posto più vicino, probabilmente c'erano anche altri posti di mare, o no? Beh, comunque il mare da Ruanda è lontano, perché Ruanda non ha è proprio sul sì, mare, sì, quindi sì, certo. Comunque 2000 chilometri bisogna farli. In ogni caso, si va in Tanzania o si va in Kenya o si va dall'altra parte che è ancora più lontano. Però questo doveva essere un viaggio importante, che in effetti è stato un viaggio importante, insomma abbiamo avuto delle disavventure o avventure che sia, abbiamo passato il parco del Serengeti a 120 km orari perché altrimenti chiudeva, insomma è stata una bellissima esperienza che io la ricordo Con grande piacere, perché insomma lo ricorderò sempre. Cioè. Cosa mangiavate in questo viaggio? Certo. Beh, mia mamma da buona italiana. A parte comprare le banane. Mia mamma da buona italiana aveva preparato tutti, avevamo tutti i frigoriferi. Il pane con la frittata. Anche il pane con la frittata, le uova. E quindi avevamo dietro di che mangiare abbondantemente. E poi chiaramente quando riuscivamo a fermarci in qualche posto ragionevole per poter mangiare, ricordo che ci siamo fermati in un posto che si chiama Mwanza, che è in Tanzania, e andammo in un hotel, eravamo, adesso dico un numero a caso perché non ricordo, non so se eravamo tipo 10 persone in tutto, e avevano 8 cucchiai in tutto l'albergo, quindi abbiamo mangiato a turno quella sera. Ma sono delle oggi probabilmente non succedono più queste cose, probabilmente non saranno più organizzate, non lo so, però sono dei ricordi bellissimi. Non, eri stanca comunque, eravate stanchi, immagino, dopo. Eravamo stanchi. Quanto ci avrete messo? Quanto ci avrete messo? 4 giorni. 4 giorni, beh, insomma, neanche tanti, considerato, insomma. Beh, sì, diciamo che facevamo parecchi chilometri al giorno, ci si fermava proprio lo stretto indispensabile, mangiare qualcosa. Abbiamo anche visitato uno o due parchi passando, ma insomma, facendo itinerari più brevi. E tu, Valentina, conosci molti paesi africani? Più o meno, molti no, l'Africa è talmente grande, certo, che dire conosco molti paesi è dire un'eresia. Qualcuno, ho avuto la fortuna di viaggiare perché anche mio papà è stato fuori, quindi la possibilità ogni tanto di spostarmi e di visitare qualche posto diverso. E tu sei affascinata dall'Africa come lo è Anna Maria? Moltissimo. Sì? Sì. Sì, sì. Ma tu sei nata in Africa? No, no. Però è nata in Italia? Sì, sì, sì. È una terra molto bella che tutti una volta nella vita dovrebbero andare a vedere. Solo che è talmente vasta, talmente grande che decidere di partire per l'Africa è difficile decidere dove andare, scegliere il posto dove andare. Sì, tu Fiorella conosci l'Africa? No. Piacerebbe andare, ma sono stata più, non lo so, a me piacciono molti paesi dell'est fino all'Asia, forse il fatto anche che ho vissuto sia a Vienna che in Slovenia. E tu mi dicevi, tua mamma ti aveva preparato in questo viaggio, io ricordo, ormai sono 15 anni fa, ed eravamo a Vienna, abbiamo deciso con mio marito e con i bambini di fare un viaggio, di passare dalla Slovacchia, entrare in Polonia, dunque andare a vedere le montagne polacche. Dunque andiamo a Vienna, siamo partiti metà mattinata, e a Vienna sono il pane, i cornetti, queste cose qua. Poi avendo due bambini piccoli, mamma parla, abbiamo fatto la scorta, dico, sai, non è che ci possiamo fermare, dunque avevamo un grandissimo pacco di pani, di queste cose qua. Abbiamo iniziato ad attraversare la Slovacchia e non c'era niente da mangiare. Siamo arrivati al confine e meno male che c'avevamo questo pacco di pane. Ci siamo fermati a un certo punto perché i bambini, vabbè, ci fermiamo, ci siamo messi una specie di pompa di benzina dove non c'era quasi niente, in un banco lì a mangiare. Tutti quelli che passavano ci guardavano mangiare, tanto che abbiamo avuto un pochettino paura. Dopo 10 minuti rifacciamo i pacchi, mangiamo in macchina andando via. Dunque, non è stata la traversata del Serengeti, ma diciamo insomma, lì insomma lì. Siamo arrivati la sera nelle montagne della Polonia. Sai dove c'era il, adesso qui c'è un lapsus, non mi ricordo più, dove era il Papa, andava sempre a sciare, no, non me lo ricordate. Non c'entra niente con Cracovia, immagino. Con Cracovia non c'entra niente. È lì vicino, poi lì vicino, sì, tu andavo, non... sì. E dunque è stato molto bello perché siamo arrivati la notte ed era un pochettino come le fiabe, c'erano ancora le slitte trainate dai cavalli, era un peso di Pasqua, il momento di Pasqua, dunque tutte le persone uscivano la sera per andare nella chiesa, e dunque c'era da questa un pochettino desolazione della Slovacchia, purtroppo siamo arrivati in questo mondo da fiaba, molto bello. Che bello. Bello, sì. Dunque. E poi, dunque, come abbiamo detto prima, Anna Maria, non parleremo del Ruanda, però magari lo abbiamo già accennato, ma vuoi ricordare dove eri tu in quei giorni dell'inizio di aprile del 94? Io e Valentina eravamo a Kigali quando ci sono stati gli eventi, sì. Ci siamo trovati in pieno in tutto ciò che è successo e in questo caso siamo fortunati perché siamo europei, quindi sono venuti. Però siete rimasti, ricordo che avevi detto un'altra volta in un'altra trasmissione in cui parlavamo d'Africa che eravate rimasti prigionieri. Allora siamo rimasti chiusi come prigionieri, insomma. Sì, come prigionieri, perché non ti azzardi ad uscire quando senti gli spari da tutte le parti. Certo. Preferisci rimanertene in casa. Certo. Siamo rimasti in casa nostra per due o tre giorni, ora non ricordo esattamente, e poi qualcuno è venuto a prenderci perché erano già era ben organizzato, per cui c'erano dei punti di raccolta, perciò siamo andati prima a casa di un signore francese che aveva raccolto una ventina di persone e di lì sono venuti i para francesi a prenderci, ci hanno scortato fino a un altro punto di raccolta che era la scuola francese, che era la scuola di Valentina. E da lì abbiamo passato una giornata intera, non ricordo se avessimo passato anche una notte lì, non penso, però da lì sono venuti con i camion e ci hanno portato in aeroporto e ci hanno evacuato. Queste sono un po' le fasi, queste situazioni critiche. Ripeto, siamo fortunati ad essere europei. Sì, in quel caso. In questo caso, quindi non abbiamo vissuto... Nel dramma noi siamo stati fortunati. E tu, Valentina, che eri molto piccola? Ho rimosso tutto. Hai rimosso tutto? Nulla. Incredibile. Non ricordo assolutamente nulla. Fortunatamente incredibile. No. Probabilmente quindi non l'hai vissuta come una bella esperienza. Ah, non penso. Non penso. Magari sai, come bambina avresti potuto viverlo, che ne so, come un gioco, per dire, però evidentemente non c'era proprio modo né di ridere né di giocare. La cosa più strana e impressionante in questi casi è che anche nei momenti in cui non spara nessuno, non ci sono rumori, ma di nessun tipo, cioè non ci sono come gli uccellini, se tu questi spari li aspetti e ti prepari. Il silenzio assoluto è la cosa che più ti impressiona, il silenzio assoluto, perché in realtà noi non siamo mai nel silenzio, in realtà rumori dall'esterno, la strada, l'uccellino, l'aereo, la macchina o il vocio, in questi casi è il silenzio assoluto, ed è piuttosto impressionante. Allora, appunto, ne abbiamo parlato perché in questi giorni ci sono stati 20 anni del genocidio, però appunto, Fiorella, sono anche i 5 anni del terremoto dell'Aquila. Sì. E volevo sapere, anche se forse è difficile da descrivere, ma quando il tuo primo viaggio, quando sei ritornata nella terra dopo il terremoto? Guarda, è stato, dunque, io, come ho detto, mia mamma è della provincia dell'Aquila, dunque lei aveva vissuto a Onnam, il suo paese Poggio Picenze, noi non abbiamo avuto tanti danni nel paese, ma là intorno, sai, sono piccoli paesi, ci si conosce tutti quanti. Quando sono tornata sono andata a casa e ho voluto fare un giro per i paesi, sai, facendo lo stesso giro che facevo da piccola quando andavo a trovare i miei amici e tutto quanto. Quello che mi ha più scioccato è non poter più circolare liberamente, perché per esempio sono entrata a Onna, non potevo più entrare, a San Gregorio non potevo più entrare, in un altro paese sono riuscita a entrare, c'era la polizia, signora, lei non può entrare. Cioè, e questo non essere più liberi, no? Anche, certo. Dunque, io ho la mia casa. E no, mi era stato tolto un pezzo di storia. Certo. Una cosa che... Io sono arrivata dopo alcuni mesi e fino all'ultimo, sai, gli amici li ho sentiti tutti quanti, però c'erano alcuni negozi dove andavo vicino a una... E ho avuto paura fino all'ultimo di andare in quei negozi per non trovare le persone. Cioè, questo, per esempio, per molti giorni non sono andata a comprare il giornale, perché non sapevo se andando all'edicola avrei ritrovato la persona che avevo lasciato l'anno prima. Ecco, questa è la paura di non ritrovare le persone. E poi tutta la vita è cambiata. Ancora adesso, cioè, tu giustamente ci sono passati 5 anni, la mia prima visita all'Aquila, e beh, le altre che sono seguite non è che sono cambiate tanto, non è che è cambiato molto. E poi c'è questa sensazione, sai, hanno messo questi sistemi di sostentamento, di protezione in tutte le case. Abbiamo visto anche il paese di mia mamma, sembra preso in una grande ragnatela. E c'è questo macchinario, sì, come un ragno, che ha tutte queste zampe e si arrampica, e nello stesso tempo costruisce tutte queste impalcature di ferro, uh-huh, che vanno nei palazzi. Ma veramente sembra un ragno che cammina. Sì, sì, sì. Vabbè. Speriamo che qualche cosa cambi. Forse dicono che qualche cosa cambia, non lo so. Allora, senti, Fiorella, mi rivolgo di nuovo a te perché sono rimasti 2 minuti. Dobbiamo ricordare che ci saranno le elezioni europee il 23 e 24 maggio per il Parlamento europeo, e che e il consolato italiano ha bisogno di giovani, dei non giovani, al di sotto dei 70 anni, che hanno una buona conoscenza della lingua italiana, per essere scrutatori o presidente di seggio. Dunque potete chiamare il consolato oppure al sito www.consbruxellesteri.it, e hanno bisogno di giovani. Io penso che sia anche nostro dovere. Quindi giovani iscritti, anche i meno giovani fino a 70 anni devono essere iscritti all'AIRE. Iscritti all'AIRE, giustamente, sì, mi dice, ecco, questa cosa qui. No, insomma, ci sono alcuni requisiti, ma questo è molto importante. Sì. E quindi entro il 18 aprile si possono mandare? Possono mandare le candidature. Telefonate. E tra l'altro, quindi l'impegno è però strettamente per questi 2 giorni, per che ovviamente saranno delle giornate lunghe, va da sé. Vabbè, sì, però non sono esperienze interessanti, anche quello di un'esperienza, e anche provvisoriamente iscritta all'AIRE. Ecco, anche sì. Dunque, penso che sia anche questo un piccolo viaggio nelle istituzioni, giusto? Certo, giusto. Allora, in quest'ultimo minuto che resta io vorrei salutare i nostri partecipanti. Allora, Valerio, ciao. Ciao. Quale sarà il tuo prossimo viaggio? California, probabilmente? Probabilmente sì. A questo punto penso di sì. California, va bene. Ma quando pensi che sarà? Presto? Massimo l'anno prossimo. L'anno prossimo, quindi forse 2015 probabilmente. Sì, sì. Va bene. Valentina, tu che sei andata in tutti i posti del mondo, chissà? Chissà. Cosa ti manca? L'Australia ci sei andata? No, ecco. No, vorrei andare in Thailandia. Ah, vedi. Quindi un'idea già ce l'hai di dove vorresti andare. Grazie Valentina di essere stata con noi. Grazie alla sempre presente Anna Maria. Grazie a voi, è sempre un gran piacere. Anch'io voglio andare in Australia. Anch'io. Io vorrei andare in Nuova Zelanda, in Sudafrica e in Argentina. E ci possiamo mettere d'accordo. Infatti. Facciamo un autobus? No, un autobus no, Fiorella. Allora, il colore. Scusate, non abbiamo detto il colore. Allora. Il viaggio ci fa pensare all'azzurro, giusto? Sì, sì. Aspettiamo suggerimenti dai nostri radioascoltatori, che possono scrivere a i colori dell'anima @radioalma.eu. Suggerimenti sul colore di questa trasmissione, sulle tonalità di azzurro possibilmente. Sì. Va bene? Sì, sì. Grazie Fiorella di essere stata con noi anche questa sera. Grazie e a grazie a tutti da me, Rosanna. Alla prossima volta, rimanete sintonizzati con Radio Alma, mentre i colori dell'anima torneranno lunedì prossimo alle 21. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie.